sta per arrivare la festa più festa, arriverà il freddo alla tua finestra. Puoi sbagliare, non c'è da aspettare, torniamo dal mare, c'è già il panettone, già insegne festoni, siamo tutti più buoni, godiamoci i doni, compriamo i regali. Si sente confuso, non può rimandare, si deve arrangiare, deve regalare e deve festeggiare, deve accogliere, deve amare, deve bere e mangiare. E la soluzione è il centro commerciale, sono sempre più care le palle di Natale. Natale vicino, col suo complessino. Bisogna più buoni per vivere. Vicino a Natale, l'ennesima sciarpa, lui odia le sciarpe. A Natale, per Natale, per Natale, a Natale. Natale è festa, Natale per forza, le palle a Natale gli girano mica male, le palle di Natale quest'anno son più care, ne compro mille milioni al centro commerciale. Natale vicino, aspetta un bambino, ha messo le luci su l'albero. Scarpa, l'amore a Natale, è caro come il sale. A Natale, per Natale, buon Natale.